Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo ma il morale per terra. Cuoricini, per l'autostima, cuoricini, cuoricini, che medicina, cuoricini.